Dimmi quando via. In onda. Oh, buonasera, Lorcoramingo torna in Exalge, ma solo per una sera, perché poi dopo noi ce le stiamo ancora nel nostro covo e ritorneremo a settembre. Però questa sera torno perché ho conosciuto Achille, che è buonasera. direttamente in Exalge, e Pietro, che invece è qui con me. Ciao. E praticamente volevo parlare appunto della pandemia perché loro due hanno la stessa visione sul come è scoppiata la pandemia, ma poi hanno visioni differenti sui vaccini, cioè sulla soluzione che è stata adottata. E per iniziare chiederei proprio ad Achille come mai è scoppiata questa pandemia, cioè quali sono le cause che hanno generato questa pandemia influenzale che ci ha tenuto chiusi in casa per 2 anni. Allora, è anche troppo tempo. Fondamentalmente, il coronavirus di adesso, la SARS-CoV-2, si tratta appunto a livello biologico, si definisce come una zoonosi, ovvero fondamentalmente è un virus che ha effettuato quello che si chiama spillover, o salto di specie, tra appunto una specie animale che è in via di identificazione, anche se in realtà si hanno diverse teorie al riguardo, e appunto l'uomo. Ciò avviene per delle mutazioni assolutamente casuali, però fondamentalmente avviene continuamente, è successo diverse volte durante la storia. Si calcola che circa il 60% delle malattie infettive umane in realtà derivi da un processo del genere. Tuttavia si osserva che questa è una tesi sostenuta dal professor David Quammen, che fondamentalmente ha scritto questo libro ben prima della pandemia, che è Spillover, che parla appunto di come questi processi di zoonosi in realtà siano destinati ad essere più frequenti e ad essere più importanti per una serie di fattori ambientali. Fondamentalmente la vicinanza sempre maggiore dell'uomo agli ambienti naturali, la riduzione conseguente degli habitat degli animali, porta a un aumentato contatto sia tra gli animali stessi, tra di loro, che ad essi con l'uomo. Quindi fondamentalmente si crea ancora più quel contatto necessario, per far avvenire appunto il momento fatale, ecco. In questo Quindi abbiamo senso, costretto la natura in spazi troppo ristretti, è esatto, questo, no? fondamentalmente noi abbiamo, costringendo la natura in spazi sempre più stretti e circondandola sempre più di presenza umana, ecco, anche involontaria, anche magari dettata da quelli che sono i normali, da quelli che sono i processi di espansione della civilizzazione che sono presenti al momento. Basti pensare ad alcune zone che vengono considerate calde da parecchio tempo, già dagli organi di controllo, come per esempio l'OMS, vi sono zone come per esempio la foresta amazzonica, come la stessa Cina, come l'Africa centrale, insomma zone in cui fondamentalmente l'espansione umana si è portata sempre più vicina a un ambiente che prima era naturale, e la conseguente diminuzione dell'habitat ha portato gli animali stessi a entrare in contatto. Poi chiaramente ci sono specie che più di altre danno questo tipo di problemi, come per esempio i pipistrelli, che per motivi legati alla propria biologia, ma chiaramente questo è un argomento su cui non voglio tediarvi troppo, fondamentalmente sono perfette specie serbatoio, quindi fondamentalmente tra di loro si scambiano virus, e venendo in contatto con l'uomo scambiano virus anche a lui. Tant'è vero, basti pensare che l'intera famiglia dei coronaviride, che è quella famiglia di virus da cui viene appunto il coronavirus, sarebbe endemica del pipistrello. Sarebbe una, diciamo, Però tipica. dicono che sia del pangolino, non è il pangolino la In causa. teoria sarebbe successo un doppio salto di specie. Fondamentalmente passando dall'uomo, dal pipistrello al pangolino e poi dal pangolino all'uomo, identificando anche quella che è la zona calda di conseguenza di pertinenza, che sarebbe appunto il mercato di Wuhan. Ma infatti, appunto, questa concentrazione degli animali in spazi sempre più ristretti, che crea appunto questi focolai virali, ha creato appunto questa esplosione, cioè ha creato questo virus. Ma allora, ciao a tutti intanto. Allora, praticamente la questione è che noi da sempre possiamo dire salto di specie, o possiamo dire condividere. Noi condividiamo dei virus, dei batteri con il regno animale, è una cosa abbastanza naturale, anche perché siamo tutti mammiferi. E quindi questa cosa è da un lato abbastanza normale. Dall'altro lato dobbiamo capire, e non è semplice capire, come mai questa riduzione, cioè più che riduzione degli spazi, diciamo che possiamo parlare di invasione, cioè nel senso che c'è un'invasione da parte dell'essere umano di spazi che sono sempre stati insomma destinati, se vuoi, o spazi in cui vivevano gli animali. Poi dobbiamo capire un attimo, e te immagino che lo sai benissimo, quali sono i range minimi etologici, cioè nel senso che un animale per poter vivere correttamente ha bisogno di uno spazio X a seconda del tipo di animale. Quindi questa introduzione, diciamo, dell'uomo negli spazi animali, questo crea dei problemi. Io inserirei un altro fattore, che sono, perché un virus si sviluppi dipende dal terreno, e quindi vengono chiamati quelli che vengono chiamati i fattori predisponenti, cioè voglio dire, se una persona ha uno stile di vita o vive in una determinata maniera, il suo terreno è più recepibile, cioè più predisposto a non riuscire a contrastare, no, l'invasione di un virus, oppure il virus trova dei terreni corretti per con cui replicarsi in una maniera più grande di quello che è normale, no? Noi siamo, se non ci fossero i virus, i batteri, i funghi, noi saremmo morti. Noi siamo circondati e fortunatamente in convivenza con i batteri. Se calcolate l'intestino umano, quello che viene chiamato il microbioma intestinale, è miliardi di batteri, virus e funghi che vivono lì dentro. Quindi c'è una questione di equilibrio. Quindi io direi, sono d'accordissimo con te, che più che altro ragioniamo su dei sistemi di rotture di equilibri. Cioè ci sono dei equilibri che per tantissimi anni sono stati in piedi, e a un certo punto c'è stata una discrasia, no? Si sono disequilibrati. Quindi il ragionamento da fare è proprio di dove si è rotto l'equilibrio, perché si è rotto l'equilibrio, cosa possiamo fare per rimettere in sesto questo equilibrio. Secondo te questa cosa non è stata fatta, cioè le soluzioni adottate per risolvere il problema virale che ha colpito il mondo in questi ultimi anni non è stata funzionale, non è stata strutturale. Diciamo. Ma, io non entro nel merito delle terapie, perché questo riguarda la medicina umana, non entro in quello. Allora, quello che sul quale, diciamo, rimango perplesso era che, a parte quello che è successo, quindi morti eccetera eccetera, poi c'è tutta una diatriba su morto per coronavirus o morto con coronavirus, che è una cosa che non è chiara e quindi andrebbe chiarita per correttezza scientifica. E l'altra questione, che secondo me continua a essere un'ottima occasione per rivedere dei sistemi, perché quello che è successo col coronavirus in questi due anni, continuando a convivere con la natura, che è casa nostra, ma in una maniera non corretta, probabilmente, e spero che non succeda chiaramente, però ci predisponiamo a che altre cose succedano, a che altre convivenze ripartono. Io su due cose non sono assolutamente d'accordo. Una è non rivedere i sistemi di vita, di convivenza con la natura, di spostamento, eccetera, eccetera. E l'altra su quale non sono assolutamente d'accordo è come è stata gestita a livello di comunicazione la pandemia. Si sa benissimo che il sistema immunitario, in caso di stress o di paura, riduce la sua efficacia, questo è un dato riconosciuto da tutta la scienza, e quindi basare un sistema di contrasto, no, a una cosa terribile come può essere una pandemia, non basandosi sulla riflessione, su cercare di ragionare, ma basandoci su mettere paura nelle persone e dividere le persone, io su questo non sono assolutamente d'accordo. Non è un ragionamento umano, secondo me, perché è la riflessione quello che distingue l'uomo da un sasso piuttosto che da un altro elemento naturale, non la divisione di chi ha ragione e chi ha torto. Chi ha ragione e chi ha torto? Siamo stati in casa tutti, quindi non ha ragione né torto nessuno, cioè ce la siamo presa tutti, vaccinati, non vaccinati, non importa. Invece il fatto che non si rifletta in maniera profonda, perché non è mai successo nella storia dell'uomo che tutti fossero chiusi in casa, no? È una roba epocale. Quindi che questa roba si riduca a un'iniezione, secondo me, evitando un ragionamento più profondo, su questo non sono d'accordo. Poi ognuno terapeuticamente fa quello che vuole. Parliamo nell'ultima. Ti sei cazzo! Non saltiamo gli argomenti, andiamo a fila. Esatto. Già iniziamo a... No, io in realtà appunto... cioè la riflessione, Pietro, ha senso, nel senso, se tu dici stiamo riducendo gli spazi alla natura e questo ha creato focolai infettivi, allora uno dovrebbe creare gli cioè far sì che ogni individuo abbia i propri spazi, se vuole vivere una condivisione. Esatto, se vuole vivere in un mondo più più salutare, insomma, no, in un mondo che dove esatto. Ma quindi c'è, cioè, esatto, il mondo più sensato. Ma secondo te quindi è stata risolta, anche perché sembra un trend, quindi una roba che succederà, visto che questo, se il restringimento della natura porta al virus, mi viene da pensare che continueranno a esserci altri virus che ritorneranno, no? Sì, è un'opzione probabile, non posso né dire di no né di sì, per onestà intellettuale non posso spingermi in questo tipo di predizioni. Certo è che noi anche abbiamo fatto anche un po' di necessità virtù, ecco. Si sono fatti degli avanzamenti tecnologici anche per il contrasto alla pandemia, che sono stati importanti. Al momento la tecnologia che viene utilizzata per i vaccini aveva pochissime applicazioni, già testate, ma pochissime applicazioni. Adesso si sta studiando per fare ben altro, e per ben altro intendo malattie ben più gravi. Si stanno studiando con la stessa formulazione anche dei vaccini antitumorali, roba che fino a poco tempo fa sarebbe stata anche quasi fantascientifica, anche se in realtà la ricerca ha i suoi tempi. La valanga di denaro è arrivata sulla ricerca, in un certo senso ha aiutato molto anche per scoprire cose nuove, sia sul virus in sé, ma anche sulla fisiologia dell'uomo. La patologia si è rivelata essere ben più complessa di quanto si credesse, e di conseguenza si doveva capire anche il perché, e si doveva capire anche i meccanismi alla base di ciò, e si doveva capire benissimo, e si è capito in parte, anche una serie di processi che c'erano pressoché sconosciuti. Posso dire che ora non siamo in grado di affrontarne un'altra ora come ora, ma se l'onda è questa, chiaramente avremo delle armi in più. Non possiamo dire di aver già vinto, ma delle armi in più le abbiamo. Chiaramente si parla di questo tipo di ricerca, ma sfugge la causa alla base di ciò. Ok, il vaccino è un'ottima soluzione, è un ottimo rimedio per quando succede, ma come si dice, prevenire è meglio che curare. come il vaccino una prevenzione nei confronti della malattia, così un cambiamento nello stile di vita dell'uomo in sé deve essere una prevenzione affinché non avvenga per niente la causa scatenante. Ti ho bloccato. No, però non vi sento benissimo, ragazzi. Ah no? Mi sono perso un pezzetto, mi sa. Peter, soprattutto non sento te. Il discorso che tu hai fatto, insomma, che la ricerca è riuscita ad avanzare in maniera preponderante, appunto anche legato al fatto che la pandemia c'era rinchiusi, e che quindi stiamo arrivando a delle conoscenze medico-scientifiche tali che ti potrebbero permettere di affrontare altre pandemie in futuro. Ora, con non dico esattamente questo, perché fondamentalmente ogni patologia è diversa e a sé, ogni caso è particolare e non, è anche bene non gufarsela, ecco. Esatto. Però si stanno facendo delle scoperte che sono a tutti gli effetti importanti. Però tu dici anche lo stile di vita, che invece per Pietro è pregnante. È proprio sì, lo è fondamentalmente è il vaccino per l'insorgenza delle nuove specie virali, un cambiamento nello stile di vita. Sì, diciamo che in medicina ci sono dei parametri, no? Quindi il primo è quello che il più elevato è quello che riguarda il mantenimento della salute, cioè cercare di avere dei sistemi dove si mantiene un livello di salute, no? Che per l'OMS, cosa che hanno detto nel 1948, quindi un bel po' di tempo fa, la salute non è l'assenza di malattia, la salute è un equilibrio sociale, psico-emozionale e fisico. E secondo me questa definizione è estremamente interessante. È regnante come definizione, è la definizione più completa che si ha al momento di salute. Perché sono d'accordissimo con te. La questione poi c'è, quindi, il mantenimento della salute. L'altra questione è quello che viene un po' confuso oggi tra prevenzione e profilassi. La prevenzione non prevede l'utilizzo di farmaci, la prevenzione prevede l'utilizzo di sistemi, e tu sai benissimo, per io infatti ho utilizzato una parola molto più semplice per esprimere lo stesso concetto, ma chiaramente sono ben consapevole della differenza tra le due. No, no, ma figurati, no, lo dicevo per la gente che ci ascolta. Sì, sì, sì, no? Chiaramente, so tutto per i nostri ascoltatori. Che te sei una persona in gamba e che sai queste cose, però molte volte la prevenzione viene confusa con la profilassi. Esatto. Quindi la prevenzione invece è una serie di sistemi che si mettono in atto, e secondo me questa cosa del coronavirus, che noi veterinari conosciamo benissimo, perché il coronavirus noi lo affrontiamo tutti i giorni nei gatti, nei maiali e in altri tipi di animali. Quindi convive con noi le varie influenze di origine animale. Certo, convive con noi da sempre. La profilassi è divisa in due parti, c'è cioè una profilassi primaria e una profilassi secondaria. La profilassi primaria prevede sempre delle azioni, è solo la profilassi secondaria che prevede l'utilizzo di eventuali farmaci. Quindi questo ci deve far riflettere, questo non è che lo dico io che ho inventato sta roba, questo lo dice la medicina, la base della medicina, e quindi questa roba qui ci deve dare una, come posso dirti, una scala di importanza su come ci dobbiamo muovere per mantenere la salute e prevenire delle problematiche. Certamente. Il dubbio, non entro nella questione, diciamo, del vaccino, come è stato formulato, eccetera, no, eccetera. Ma quello sono cose un discorso piuttosto complesso, cui ho i miei pensieri, ma è un'altra roba. Il dubbio che mi sorge è che venga ragionata come soluzione mentre la soluzione sta più a monte, cioè le cause che predispongono questi problemi sono dovute, come dicevi te correttamente, su stili di vita, su ambienti, eccetera. Allora questa cosa che il vaccino possa risolvere una convivenza che abbiamo con Madre Terra non corretta, potrebbe essere mal interpretata, diciamo, dalle persone. Cioè, quello... io faccio come cazzo voglio, intanto poi un vaccino prima o poi lo tirano fuori e io ci cavo gli zampetti. No, noi non dobbiamo mai vendere la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato, bisogna sempre dire che c'è stato un motivo per cui si è resa necessaria appunto una profilassi tipo secondario. Eravamo in una situazione in cui la gestione della pandemia è stata quello che è stata, poi sono discorsi che faremo nella seconda domanda magari, però fondamentalmente io andrei già a questo punto con la seconda, cioè con la domanda. Sì, termino un attimo questo intervento. Va. E poi partiamo. Però fondamentalmente quello che c'è da ricordare è che appunto è un intervento terapeutico che si è reso necessario per la presenza di un patogeno, e chiaramente bisogna considerare tutto alla luce del fatto che chiaramente anche con la vaccinazione il patogeno non sparisce. Basti vedere cosa succede ad altre decine di malattie umane che appaiono anche in presenza di una vaccinazione pressoché totale. Basti vedere, ci sono persone che ancora muoiono per il morbillo, ci sono persone che ancora muoiono per il tetano, persone che muoiono ancora. Allora fermo un attimo che ti blocco, perché il tetano non c'entra assolutamente nulla. Certamente, il tetano non è trasmissibile né tra animali né tra persone. Sono ben consapevole di ciò. Infilare dentro, perché il tetano infilano dentro tutti con una quantità di ignoranza. Ma allora io ne parlavo perché comunque anche se abbiamo una misura profilattica per il tetano, e chiaramente l'infezione da tetano è assolutamente accidentale, le spore sono nel terreno. Appunto. E poi è un anaerobio, quindi non è un anaerobio, cioè è sporigeno. No, ma è importante, non lo dico per te. Perché io ascolto delle robe che mi vengono già c'è i capelli dritti in la capisco natura, perfettamente è sporigere anaerobio, quindi è pressoché ubiquitario, non se ne mischiare il tetano col covid e il morbillo, ragazzi. Forse potevo tirare fuori un altro tipo di per la pertosse, via. Per la pertosse, no, ma ti capisco, perché è l'influenza di quello che di quello che dicono le persone, che poi uno... Uno prova a tirare fuori degli eventi, degli esempi un po' terra-terra, però non... spesso sono imprecisi, imprecisi. Sì. Poi bisogna guardare le incidenze e poi bisogna guardare anche i fattori predisponenti. Un'altra cosa, uno studio che sono andato a leggere, che è abbastanza interessante, è dove, diciamo, purtroppo, siamo tutti col cuore... con qualcuno che ha perso qualcuno, non ce l'ha fatta, quindi certo. Chiaramente è una cosa triste, è estremamente triste. Ma ci sono zone in cui l'incidenza, diciamo, patologica del virus è stata molto più importante che in altre. Se ne è parlato poco di questa cosa qua, è invece una cosa secondo me fondamentale, perché quando te lavori con un virus, quindi lavori sui terreni, te devi cercare di capire anche dove i terreni sono, sia, diciamo, le predisposizioni personali, cioè il tuo fisico, ma anche territori. E ci sono dei territori dove l'incidenza è stata estremamente più alta che in altri. Quindi non andare in profondità a capire questi sistemi, secondo me, è estremamente sbagliato. Perché ci possono dare delle indicazioni, siccome questa roba parte dalla terra, no? da una condivisione che abbiamo con i virus insieme agli animali. Se ci sono dei punti della terra dove questo è stato più forte che in altri, dobbiamo capire se era il virus che aveva una virulenza più alta, e io non credo, o altrimenti dei fattori predisponenti nelle persone, quindi stile di vita, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità del cibo che ingeriscono, eccetera, eccetera, che molto probabilmente... Io ho letto qualcosa, ma non ho la verità in tasca. Quello che so per certo è che questi dati, siccome si parla anche di 60% in più di casi, non è poco, che questi dati qui, in una visione sistemica, andrebbero un attimo messi dentro, diciamo, il calderone, chiamiamolo così, della ricerca, capito? Certamente. Se non vengono messi dentro questi dati, io non sono d'accordo, per esempio. Allora, la ricerca da quel punto di vista è anche impegnata nel cercare appunto dei fattori che ci possono dare delle indicazioni, dei marker. Se ne sono studiati diversi. Avevo letto un articolo che è stato formulato da un gruppo di scienziati che ha fatto un esperimento molto particolare. Fondamentalmente ha disegnato un'intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e ha confrontato circa un 300-400 pubblicazioni sul Covid con tutti i parametri paziente per paziente. E quello che ha trovato è stato che un ottimo predittore dell'incidenza delle forme gravi del Covid sia in realtà la glicemia, cosa che non credevamo fosse in realtà così importante. In realtà lo è, perché a quanto pare la glicemia è correlata anche a diversi altri cambiamenti nello stile di vita. Persone iperglicemiche sono certamente persone che hanno uno stile di vita, possiamo dire, che può necessitare di correzioni, oppure fondamentalmente o presentano patologie preesistenti come il diabete, oppure fondamentalmente sì, tutto l'insieme della situazione le porta ad essere in una condizione di non esattamente di perfetta salute. Altri parametri sono stati cercati a tal proposito, e se ne sono trovati diversi, sono alcuni anche piuttosto complessi, però fondamentalmente ci indicano che c'è una forte incidenza dello stile di vita, della dieta, della convivenza nello stretto degli esseri umani. Le correlazioni vengono fatte a livello statistico anche in relazione alla densità di popolazione, per esempio. Quello è un indice importantissimo, soprattutto per questo tipo di patologia che è aerotrasportata, e quindi fondamentalmente risente dell'effetto della densità di popolazione. Gli studi sono molto chiari in tal proposito. I parametri che influenzano l'incidenza di questa specie in particolare sono molto influenzati da quelle che sono le caratteristiche dello stile di vita e delle abitudini del luogo in cui si va a effettuare lo studio. E queste differenze sono appunto importanti da identificare, sia magari in un futuro utilizzarle per trovare una soluzione più concreta. Eh beh, sì, la vogliamo ascoltare una canzone prima dell'ultima domanda. Vai, vi attacco una canzoncina. È quella che in realtà vogliono tutti e due parlare di quello, ma si stanno trattenendo, quindi facciamo una pausa. Facciamo una piccola pausa, disattivate gli audio, ci riattacchiamo al ritorno e metto la musica, ok? Perfetto. Top of my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Eccoci di nuovo qua. Ok, ci risiamo? Hai l'audio disattivato? Ci risiamo per l'ultimo domandone, quello che farà scattare la rissa tra Achille e Pietro, che sono stati civili finora. Esatto, ma adesso scoppierà la rissa assolutamente, anche se noi non la vogliamo, perché in realtà l'intento è comprendere la situazione, e la domanda appunto è: esatto, così fatene versare anche un altro, che quello già lo stai quasi finendo. Esatto, però devi iniziare te, devi spiegare cos'è sto vaccino, perché poi soprattutto molti si chiedono e chiedono: ma perché continuiamo a vaccinarci in continuazione ogni 6 mesi, ogni... Qua, spiegaci, vai, raccontaci tu. Io non so. fondamentalmente si parla di una formulazione basata su dei liposomi, ovvero su delle bolle di grasso che contengono il loro principio attivo all'interno. Ciò ha una serie di vantaggi, prima di tutto a livello di biocompatibilità, perché non c'è... Dicono che non si sente nulla. Non si sente nulla? Dicono. A me non si sente. Io mi sento. Voi mi sentite? Sì, sì, io ti sento. I ragazzi in radio ci sentono? No, mi sento. Quindi è tutto perfetto. Vai, continua allora. Bella. Ok, fondamentalmente questa formulazione prevede una serie di vantaggi a livello di biocompatibilità, perché non ha necessità dell'aggiunta di quelli che sono le sostanze adiuvanti per i vaccini che sono stati fatti in precedenza, che comprendono virus inattivato o virus attenuato o comunque molecole ricombinanti. Sto parlando chiaramente dei due di Moderna e Pfizer, che sono fondamentalmente identici per la loro formulazione. Non necessitano appunto degli adiuvanti. Gli adiuvanti che cosa sono? Sono delle sostanze che portano una lieve infiammazione locale, che richiama appunto la risposta infiammatoria, che porta appunto all'azione di riconoscimento dell'antigene, di conseguenza a quello che è il primo contatto con l'antigene virale e quindi la memoria immunitaria del nostro organismo. Perché bisogna vaccinarsi di frequente contro questo virus? Il virus è un virus che abbiamo già visto mutare con una discreta frequenza. Si pensava di meno, ma in realtà le mutazioni sono state importanti e molte mutazioni necessitano di una risposta un po' più consistente. Basti pensare alle recenti varianti, ovvero Delta, Omicron, Deltacron, Omicron 2, tutte le nuove varianti. Di conseguenza il richiamo è fondamentale per mantenere attiva la soglia di immunità, che tende comunque a sfumare nel tempo anche con gli altri vaccini, tant'è vero che poi bisogna fare richiami ogni tot anni, dipende appunto dal vaccino. Di conseguenza appunto mantenere attiva questa soglia consente di avere una copertura efficace, consente di mantenere il sistema immunitario pronto, anche all'insorgenza di varianti che presentano caratteristiche di elusione immunitaria, come lo sono appunto Delta, come lo sono Omicron e tutte le varianti di Omicron. Quello che è importante però è mantenere alta la quota di vaccinazione, perché i virus funzionano secondo un modello matematico piuttosto semplice in realtà. Il loro indice di trasmissione, il loro indice di mutazione, pardon, è fisso, dipende dalle caratteristiche genetiche del virus in questione, dalle caratteristiche biologiche del virus in questione, e fondamentalmente però è ricavato da una semplice formula, ovvero numero di mutazioni su numero di replicazioni. Mantenendo basso il numero di replicazioni, proprio matematicamente si osserva che si mantiene anche piuttosto basso il numero di mutazioni. Il numero di mutazioni fondamentalmente è indicato come paia di basi mutate ogni 1000 replicazioni. E fondamentalmente, appunto, essendo l'indice costante e mantenendosi costante, meno replicazioni si hanno, meglio è. In un soggetto vaccinato sicuramente il numero di replicazioni è inferiore rispetto in un soggetto naive, o un soggetto, come si suol dire in biologia, wild type, ovvero che non ha ricevuto alcun tipo di trattamento. E a questo punto invece sentiamo Pietro, che comunque Pietro riconosce i vaccini, no? Vai. Allora, intanto ringrazio Achille perché finalmente una bella chiacchierata tra persone sane, certamente, di mente, senza arrabbiarsi, che cercano di trovare un ragionamento. Quindi ti ringrazio tanto, perché allora quello su cui non sono d'accordo è che è diventata una roba Milan-Inter, alti e bassi, neri e bianchi, e su questo non sono d'accordo. E su questo quindi siamo d'accordo, ragionare... sono d'accordo anch'io. La questione è che fondamentalmente la ricerca c'è, ma non viene sentita perché fondamentalmente è inondata da miliardi di voci contrastanti, quindi bisogna un attimino evitare sì, il la tifo. Ricerca c'è e le voci contrastanti, Achille, nella ricerca sono fondamentali. Certamente. Quando c'è solo un monopensiero, la ricerca ma è fregata. Sono d'accordo. Non funziona. Quindi vanno ascoltate anche altre voci, perché è importante, perché queste altre voci, ogni dubbio che sorge, la scienza va avanti sui dubbi, e quindi se ci sono persone che hanno dei dubbi, e i dubbi possono anche essere leciti, è importante ascoltarli per poi verificare se questo dubbio può portare a una miglioria del sistema. Lo scienziato è fondamentalmente una persona che non sa niente, quindi bisogna partire dal presupposto che lo scienziato è ignorante di quello che studia, finché non scopre qualcosa. Appunto. Quindi la questione che sarebbe interessante, sul quale sarebbe interessante lavorare, no? Perché te parli di modelli matematici, ma così non funziona un corpo. Un corpo funziona su modelli sinergici, no? Cioè uno più uno chiaramente... in natura può fare zero. No, aspetta, fammi finire. Uno più uno in natura può fare zero, può fare miliardo, sai benissimo sta roba. Quindi, per esempio, una cosa che noi facciamo nei cani e nei gatti è la titolazione anticorpale. Cioè, quando io inietto un virus a base di RNA oppure un virus inattivato, fino a oggi si sono semplicemente utilizzati virus inattivati o virus a media virulenza o anche virus attivi, quello che va valutato è come reagisce il sistema immunitario a questo stimolo, no? Perché praticamente te fai uno stimolo, cioè cerchi di stimolare fondamentalmente una stimolazione immunitaria, funziona è una è semplicemente una stimolazione immunitaria. Cosa vuol dire? Io ti ricordo che c'è sta robetta che è in giro, e quindi quando la vedi so cosa fare. Siamo a contatto riesco primario. In immunologia lo chiamiamo contatto primario. Sì, guarda, io medicina veterinaria, l'esame di malattie infettive è stato uno dei sassi più grandi nei quali abbiamo dovuto studiare. Quindi la questione è questa, e ci può stare come idea. La questione che normalmente, che io chiaramente in sistemi di pandemia non voglio giudicare cosa ha fatto la medicina, perché non ho, diciamo, pur essendo un medico, comunque ognuno fa il suo mestiere, io faccio anche altre cose, è che comunque sulla questione della variabilità, cioè del virus coronavirus, una cosa che si sapeva da sempre, sono virus influenzali, quindi è evidente, si sa benissimo che questi variano continuamente, e che quindi non è detto che un tipo di vaccino possa corrispondere, diciamo, a quella variabile. Questo è un dato di fatto, nel senso che fortunatamente, diciamo, i sintomi sono stati più lievi, però è evidente, e questo è un dato di fatto, cioè non è che è contro meno, io guardo solo quello che è successo, che determinate persone con copertura vaccinale comunque il coronavirus lo hanno preso. Certo, ma quindi la questione qual è? È che bisogna un po' ragionare intanto su quel bellissimo ragionamento che abbiamo fatto prima, cioè che non possiamo basare la nostra salute, la nostra felicità su un pezzo di ferro con un buco in mezzo con il quale che introduciamo in un nostro sistema muscolare e nel quale inseriamo una determinata pozione, o una determinata quantità di elementi. Quindi quello è, se vuoi, una specie di emergenza, chiamiamola così, se vogliamo chiamarla così, ma il ragionamento è molto più ampio e molto più alto di questo. La questione è che nei cani noi facciamo le titolazioni anticorpali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io inietto un vaccino X, ok? E poi vado a vedere qual è il livello di reazione anticorpale che ha avuto l'animale. E in questo caso qui abbiamo visto che, per esempio, fatto in età precoce, molti di questi che hanno ricevuto il vaccino sono non responder, cioè il sistema immunitario non ha, diciamo, non è stato preso in giro, chiamiamolo così, da questo inganno, tra virgolette, cioè da questa stimolazione. Un inganno a fin di bene, diciamo. La ripetizione di un vaccino non è matematico, su questo mi permetto, Achille, che ti voglio un gran bene, non sono d'accordo con te, non è matematica questa cosa qua, perché dipende dall'individuo, dalla sua situazione, da malattie pregresse, dalla vita che fa, come risponde. Quindi una cosa interessante, spero che la stiano facendo, probabilmente la stanno facendo, sarebbe interessante farla, è capire come sta reagendo il sistema immunitario di queste persone. Ti faccio un esempio pratico, ritorniamo al tetano. Mia moglie doveva fare il richiamo del siero perché lavorava in campagna, ok. Allora si è fatta la titolazione anticorpale, lei aveva un livello 1.2, mentre il siero ti porta a 0.06, quindi aveva il doppio, diciamo, degli anticorpi rispetto a quello che avrebbe potuto dargli il vaccino. La domanda al medico è stata: ma se io mi inietto, cosa faccio? Vado da 1.8 a 2? Torno indietro? Come reagisce il mio sistema immunitario che sta funzionando perfettamente? Non c'è risposta a questa cosa qua. Quindi l'evoluzione di questo sistema, secondo me, poi io conto zero, quindi questo è il mio pensiero, è solamente un mio pensiero, ma non solo mio, di tanti. Altra gente, è cercare di entrare un più nel dettaglio e cercare di capire come stanno rispondendo i sistemi immunitari a questa stimolazione. E su questo, secondo me, i dati non sono, andrei un po' più in profondità, perché è una cosa gravissima. Stiamo, a parte chiusi in casa, tante persone che sono morte, tragedie. Calcola che ci sono persone che non vedono i loro cari da 2 anni, cioè, nel senso, non puoi entrare in una struttura a vedere tuo papà o tua mamma che sono chiusi là come i canarini in gabbia. Allora, tutta questa roba qui, come incide sulla società, come incide sul sistema immunitario delle persone, come incide su questi anziani che non possono più vedere i loro cari? Cioè, è veramente un sistema sanitario o no? Io su questo mi pongo delle domande, perché tu conosci Ippocrate, il padre della medicina, il nostro padre, e quello che dice è primum non nocere. Cioè, non bisogna nuocere, la prima cosa che devi fare è non nuocere. E è evidente che determinati atteggiamenti estremizzati in Italia hanno nuociuto a dei rapporti. E allora, che valenza ha vivere un mese in più e non poter più vedere tuo figlio, tua figlia o i tuoi cari? Che valenza ha chiudere gli anziani e non poterli vedere per 2 anni? Tutto questo va messo in una visione sistemica. Questa è la mia visione, chiaramente. Prendetela per quello che è, questo va messo dentro quello che sta succedendo, dentro quello che sta succedendo, anche perché è evidente, questa è un'evidenza, lo sai benissimo, che se io ho una vaccinazione e entro in un sistema, io potrei essere un asintomatico, non vaccino, lo posso anche far girare pur essendo vaccinato, e questo è venuto fuori. Quindi la questione, ritorno indietro, non sto a discutere del vaccino, ma sto a discutere del sistema. E il sistema, no, secondo me, dopo questi 2 anni di esperienza, va ripensato, basandosi su un concetto di amore, su un concetto di poter voler bene alle persone e di poter avvicinarle, e di capire se questa distanza è stata utile o forse anche no. Questo è il mio dubbio. Chiaramente qui si entra in tutte quelle varie intersezioni. Ma questa è la vita, Achille. Sì, cioè in tutte quelle varie intersezioni. Cioè, se noi riduciamo a un ago, una siringa, è un casino. Questa è la vita. E noi dobbiamo tutte quelle varie intersezioni, qualche volta sane, qualche volta malsane, tra la sanità e la politica, in cui non starei ad entrare, perché chiaramente... No, qui ci facciamo notte. E ci facciamo, anzi, ci facciamo mattina, perché è già notte. Però fondamentalmente, ecco, una cosa che vorrei precisare un attimino, appunto, per tenerci un attimino su una posizione intermedia tra le due è che fondamentalmente sì, si identificano dei modelli matematici, ma i modelli matematici sono legati alle tendenze statistiche, ovvero per le statistiche appunto più sono affidabili, cioè per renderle affidabili fondamentalmente necessitano di un grande numero di casi che si mettono da una parte o dall'altra di una grossa curva a campana e di conseguenza chiaramente ci mostrerà delle tendenze generali, dei funzionamenti ampi della questione che vanno sempre più precisati, ma sul particolare non ci dà mai un'assoluta risoluzione, ecco. Fondamentalmente per ogni individuo possono succedere miliardi di cose. L'individuo va ripreso in considerazione. Utilizzare dei protocolli, utilizzare un farmaco, qualsiasi esso sia, che lo utilizzi dai bambini agli anziani, a una persona diciamo in stato di gravidanza, a una fisiologia diversa, a, con patologie presenti, eccetera. Questa cosa qui deve far riflettere profondamente, perché le variabili sono così alte, le variabili fisiologiche sono così alte, Achille, che come fai a dare la stessa cosa a una persona con delle variabilità così ampie? Allora, è il meno peggio? Ci basiamo su studi non funziona così con la elevata, è chiaro, ma noi ci basiamo fondamentalmente su studi con alta percentuale di successo, non su roba piuttosto casuale, che sono d'accordo che ci siano delle variabilità di tipo individuale, ma non è che uno va a corrente e l'altro va a metabolismo. No, però per esempio, scusami che ti interrompo un secondo, ma sui bambini fortunatamente l'incidenza è stata praticamente quasi, grazie a Dio, sarebbe stato molto peggio. Allora, ma perché se noi sotto una certa età diciamo che il virus, che è una cosa abbastanza normale per un coronavirus, non ha incidenza, noi dobbiamo obbligare dai 12 anni in su un'iniezione, fortunatamente, grazie a Dio, io sono felice di sta roba in fine pandemia. Allora, questa roba me la dovete spiegare. Aspirante persona di scienza, io non ho paura ad ammettere la mia ignoranza in tal senso. Ma allora, figurati, siamo qui a parlare del più e del meno, la nostra conversazione in radio. No, questo non cambierà il mondo. Io non so se te hai dei figli, ma io no. No, Dio buono, speriamo di no. Cioè. Ecco, allora, quando avrai dei figli, queste domande ti vengono nella testa, perché io adesso ho una figlia che ha compiuto 12 anni qualche giorno fa. Siamo finiti. Adesso fra un po' non c'è più mascherine, per fortuna, eccetera. E io come genitore che cosa faccio? Non sono nella situazione. Te lo dico perché ti voglio bene, capito? Quindi il giorno che sarai in quella situazione lì, la tua testa cambierà, perché ti fai delle domande, perché quando cominci ad andare a vedere, e ti dico, pensa che io sono il più vaccinista di tutti, io sono stato in Guatemala 5 anni, sotto le bombe dal 91 al 97 per andare a vaccinare dei polli contro la Newcastle disease, e mi portavo il vaccino sulla schiena 3 giorni a piedi, quindi non è che sono contro questa roba qua, ma non ho mai visto una questione che non entri un po' nel dettaglio, nel senso che se poi vai a vedere i bugiardini dei vaccini, cioè gli effetti collaterali che scrivono, non lo dico io, che scrivono, cioè sono abbastanza importanti. Sono importanti, ma c'è anche da vedere nell'incidenza. Mi adeguo alla società o cerco di ragionare? Certamente, ma poi per certe cose si fanno quelli che vengono. Mia figlia domani sta male? Se mia figlia domani sta male, io cosa faccio? Si fanno chiaramente vedere certi sintomi spaventa, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo nel fatto. Però a quel punto ci sono miliardi di altri farmaci che nel mondo vengono utilizzati come caramelle, che hanno effetti collaterali più spaventosi. Non a casa nostra sicuramente. Certamente, ma poi basta vedere, cioè, però vedo persone che dicono ho avuto un po' di mal di testa, ho preso del paracetamolo. guarda, nel senso, potevi stare tranquillo, potevi prenderti un tè, cioè. bravissimo. Quindi io questa stimolazione mediatica a dire che bisogna fare questa roba per stare meglio, io su questo, ragazzi, o perlomeno io, insomma, metto davanti i miei dubbi. Io questo è il mio ambito, io studio nell'ambito della, cioè io faccio, non faccio biologia come è scritto nel tutto il preambolo dell'intervista, ma faccio chimica e tecnologie farmaceutiche. Il mio ambito è fondamentalmente la farmacologia, quindi lo studio dei farmaci è fondamentale per me, cioè lo studio del funzionamento di un singolo farmaco è proprio il mio ambito. E lo dici solo ora che non era il mio ambito. Ma io te l'ho detto, Peter, ma io te l'ho detto, Peter, che non faccio biologia. Ma... e te dici, vabbè, te scrivi studente di biologia, poi vediamo. No, io all'inizio vabbè, vai. No, vabbè, è un errore perdonabilissimo, alla fine anche noi la facciamo biologia, quindi... Ti abbiamo scoperto, Achille. Anche noi è sgamato, vado via. Fondamentalmente, no, una persona bellissima. Lo studio di un farmaco fondamentalmente si fa su modelli sempre più vicini all'uomo e poi si arriva poi all'uomo. Però ecco, le differenze individuali sono fondamentali per ogni farmaco. I meccanismi sono comuni quasi per tutti gli individui, e questo quasi che frega, di conseguenza questo quasi è mica poca roba, appunto, è un quasi che però vuol dire milioni di persone, e quindi la questione è bellissima, che siccome il mondo è in estrema evoluzione e persone come te che studiano che hanno delle competenze enormi per studiare determinate cose, allora sto quasi, e tu lo sai bene, si può risolvere. Poi è una questione economica, è una questione di tempo, eccetera eccetera, ma ti posso dire col cuore, ma chi se ne frega del tempo e dei soldi? Cioè, stiamo parlando di medicina. Guarda, finché c'è da mettere soldi nella ricerca, io sono d'accordissimo, si mette le mani avanti. allora bisogna richiedere. Ma noi ci chiedano al laboratorio, che non ce li danno. È già il fatto che non te li diano, magari qualche dubbio sorge spontaneo. Dipende, queste sono questioni più di ufficio che di laboratorio. No, ok. Noi siamo dal lato del bancone di solito. No, però la questione è che quello che devono pensare le persone, che quando parlano di un morto o di una persona che ha avuto anche effetti collaterali, esistono, non si può negare questa roba qua. Io spero che siano pochissimi. Non sono qui per negare questo. E se quella persona che ha degli effetti collaterali, magari anche gravi, è tuo figlio, tua figlia, o tuo zio, o un tuo amico, è diverso che se è un numero, e i numeri adesso basta, noi siamo persone e quindi dobbiamo essere trattati come persone. E una persona, quanto vale una persona? Cioè, se io, mio figlio ha dei problemi, cosa mi date? 1 milione di euro, 5 milioni? Ma io cosa me ne faccio? Non so. Certamente. Cioè, che valore ha una vita? Non ha un valore economico, ha un valore estremamente più alto. Quindi questo, secondo me, è il punto sul quale bisogna ragionare in sta storia. Certamente. Un po' ragionare, alzare un attimo l'asticella, Achille, se sei d'accordo, utilizzare questa situazione per alzare un attimino l'asticella, no? dei ragionamenti. Certamente. Io su questo avrei gran piacere, e grazie davvero che abbiamo parlato assieme. Guarda, no? Veramente un piacere sentire un punto di vista ragionato, perché ultimamente è quello che è mancato nella discussione, è esattamente l'aspetto di confronto e di costruttività che è mancato nella discussione sull'intera questione, e quindi ringrazio anch'io. E quindi siamo riusciti a fare una cosa del genere. Ci siamo riusciti! Eh sì. perché infatti io volevo fare questa cosa apposta. Poi naturalmente ci sarà la registrazione che la metteremo online, però è stato un bellissimo confronto su appunto due visioni diverse, ma comunque in confronto, com'è giusto che sia, perché tanto tutti gli individui hanno visioni differenti. Diciamo che grazie a Achille abbiamo riportato il ragionamento a degli umani e non a delle macchine che litigano una con l'altra. Beh, abbiamo riportato. Abbiamo tenuto il discorso su toni tranquilli, con certamente delle differenze di opinioni, ma quelle sono fisiologiche, non abbiamo tutti la stessa opinione. Sì, ma la differenza di opinione è quello che fa muovere il sistema. Esattamente. Di conseguenza. Cioè, e l'abbiamo risolta, diciamo, con tra signori di mondo, tra gentiluomini. Quindi, esatto. Quindi è stato tutto bellissimo. È stato tutto bellissimo. Ora basta. Ci siamo occupati. Gentiluomini, però amanti anche del rock and roll. Certamente, ovvio. Cioè, infatti la musica... Perfetta. Anche la musica vi è piaciuta, eh? Ma infatti devi mettere adesso qualcosa per salutare. Ora metto qualcosa tutti, per salutare, sì, ora vi saluto, esatto. Adeguatamente. E ringraziamo Exalge per averci ospitato, ringraziamo anche se Exalge. Giocavano gente a ping pong, urlavano, però... Sì, sono gli effetti collaterali di stare in un luogo con grande attività e fermento. Beh, vabbè, però è bello anche quello, perché quello... c'è dentro lettere con un po' origlia, pasta, sì, eccetera. Poi sono tutti amici. Dai. Perfetto, vi saluto, metto l'ultimo pezzo. Ringrazio. È stato veramente un piacere. Un saluto e buona serata a tutti da Allor Coramingo e grazie. Bella. Via.